so. Antonio, mi chiedono al bagno schiuma, Victory, come si fa? Non so come si fa. Scusa, non ti ho sentito. Allora, ho qui Victory che vorrebbe il bagno schiuma e io non so come si dà. Sì, arrivo. Antonio, allora mi ha chiamato Anna e mi ha chiesto se puoi appendere un cartello che in teoria ha già fatto Andrea per domani. Scusate, non ho capito. Antonio, mi ha chiamato Anna, sono in segreteria, puoi scendere? Arrivo. Passo e chiudo. E per essere vita. E beh, you mormito, sì. E ci fai cederci? Niente, tu cosa stai facendo? Oh, mi avete svegliato, lasciatemi dormire in pace. Fate QRT e zitti, Vado in campagna, tu che c'è il sole, a tagliare l'erba. Non ce l'ho da tagliare io, è già tagliata per quest'anno, che cosa vi stai cercando a dire? Non l'hai visto giù la divisione, 3 metri di elba, chi sembra che ha fatto la sali, l'ha fatta crescere in pressa, super veloce l'ha fatta crescere. E anche di qui la campagna di Graziano. E ora la campagna mia ha visto l'operaio da Lenny Relba. L'operaio ha visto. Non prebbe, tu te lo puoi permettere. Io lo fecerò. E allora, tutti belli, belli pronti, tutti belli in attrezzatura di lavoro, tutte uguali, tutti lavorando. Io da qui ti dico. Solo tu sei gicciolando in casa, compreso. Così ti sa di venire. E allora, diglielo anche tu, Luca. Che mai? Luca sta merendando con la pasta a forno. Tu, ancora nuda. La facciamo sabato per domenica, che siamo in campagna dalla mamma di Marina. Ah, non andà fuori a mangiare. In agroturismo bisogna andare a mangiare lui. Se mi dai di là già tu. Ehi, io dirà so a poco, che a finale c'ha di me. Noi mangiamo le sabattate, mai mangiamo lo mattessi. Ehi, che mari? Ti taghere. Ma Luca quando anda dalla zozzara, la domenica, come te che si andendi all'agriturismo? Cazzo, sta lupa di circolare per la campagna. Tassa anche le favette, quelle tenere, il primo pelo, mi capita, lo devi vivere, altro che agriturismo, diglielo lui. Ma non so tutti se lo possa permettere, lui sì, a vero, lui sì se lo può permettere, noi no. Che cosa mi posso permettere, nuda? Com'è che nuda? Si sta di qui tu, più fenni le favette, i ghibi, adesso sono le favette a piantato. E non ce la fa più, grazie a lui fa ossigeno, capito. Ha piantato un po' di tutto, già ne ha roba, non è che non ne ha, però prima piantava melanzane, zucchine, capito, cetrioli, adesso ha finocchi, carciofi, stanno uscendo, ho visto ci sono, e tutte quelle piante di favette. Non so buoni, è buono. Tu fatti imparare, no? E pianti tu, tanto che scendi con Marina, te lo fai vedere come si fa, e quando scendi, fai i colpi di zappizzante e pianti qualche cosa insieme a Marina. Bello bene. Sono figliura, che oggi ti fai, non oggi compreso. Luca c'ha l'osso in pancia per la zappa, ma hai capito, grazie. Vabbè, ma tanto poi è una cosa che ti dà soddisfazione, perché sai che l'hai piantata tu, l'hai vista nascere, da poi ti la mangi pure, cosa vuoi di più? Però Ma un discorso che no, cioè, a parte non mi ripatri di fare, a voi non c'è il figlio prima, se permetti. Beh, piantate insieme in comunella e poi raccogliete insieme in comunella, però beh, vero Giammari? Non so tutti che sono nato per la campagna, no, grazie. Già ce ne sono molti che si dedicano, anche se non sono del mestiere. Però Luca mi sembra che non sia adatto a quel lavoro, vero Luca? Ah sì, beh, sì Gio Maria, perché no? Io mi arrangio a tutto, non è che, solo che non me l'ha mai proposto, non mi sono mai offerto, perciò non buh, se a me poi mi chiamano a farlo, vado lo faccio, qual è il problema. E da ancora si impazza un viraggio. Vabbè, cosa. Si dice tanto per dire, no? Perché io non lo so, che ti dedichi già tutto. Questo deve essere la persona, no? Non è che devi solo fare un mestiere, no? In campagna bisogna adattarsi a tutto. Noi dimo il parasassi e andassero a bassi, capito lui? Non è problema. Vabbè, la campagna già è bella, mi piace. Io sono andato ieri con Luca a vedere un lavoro. E questo qua c'ha un po' di tutto, Ed è grande di età, C'ha 71 anni, mi sa. E mi sono mangiato anche due favette che li ha piantate. E ancora è minore, e già mi pensi così. Appena, non è appena uscita, va a Gacchedì. E mi pensi così, perché non è troppo umana, non mi piace. Pucci. Cade un po' con doccia a revisare, cate, a che mare. Ah, io ho preso del peperoncino, bundita, gatta, è poco buona mia. E mi piace più questi cade nasi nieta che cade molta. Sì, così cruda, quando è più piccola, mi piace, perché è dolce, non è troppo umana, no? A me non piace. Avanti, grazie. Neanche a me quando è già grande mi piace mangiare la crula. Cucinata sì, budita, le prezzemolo, così sì, quando è già grandetta, là. Chissà minore, denara me la mangio così con usare, è poco e buona. Poi però quelle grandi, che cominciano a essere grandi, non mi piacciono così, cotti sì, crudi no però. Beh, manca a me, per le più minori sì, a voglia, e poi le fa anche sott'olio, quelle più piccole, ma già ne è uscita comunque, a voglia. Già ho visto quelle piatte, le ho viste, qua alcune piatte sono pure un bel di garri, già le ho viste già. Ma già si altro chi fa, so che ormai io, anche sui problemi di salute, capite, come temi. Solo che lui fa ossigeno la notte, quello con la maschera, ecco diciamo, non mi ricordo come viene chiamato, però già si alza chi fa, dai, la moglie non può più, perché purtroppo ha quel problema. Non solo, gli abbiamo niente così, purtroppo. Piano piano, chi si crede ci ha fatto, tanto mi ammazzasse un tempo, già va bene. Ma c'era gente così, anche il nonno di mio genero, già, 90 anni va via. 90 anni, sino a 2 anni fa era sapendo piante. Poi si è bloccato, ed era sempre cuccato, è morto da poco. E mi bisognava di piccolo sano, però sano, solo che aveva questo problema dell'Alzheimer. Poi le gitta l'Alzheimer e l'ha appuntito. Vabbè, purtroppo, ciao Pole. Purtroppo è così. Quando si parla di Gio Maria, anche Gio Maria alla sua età, non è che lo può punire a campagna, zappa e fa, pianta. Non ce la fa, penso, boh. E prima lo facevo io, trattavo di tutto. Sì, facciamo di questo filo, c'era già la verdura, capito? E le fave le avevo sempre piantate. Solo che ultimamente me ne mangiavano sempre le cornacchie e il merlo, così che andavo a prendere, invece non trovavo solo la buccia, trovavo il resto, se la mangiavo le coronacchi. Allora la volta non ho piantato più. E poi già l'hai visto dove le piante, in mezzo agli alberi, non cresce niente sotto gli alberi, capito? E per cui non mi conviene, ecco, a piantare niente. Vado, me la compro tranquillo. Già c'ho la frutta in campagna, basta, mi basta la frutta, capito? Sì, no, lì già c'è terreno buono lui, quello sì. Si fa il vino, poi c'ha tre alberi di ciliegie, mi sa. Poi ne ha due o tre di nespole. Albicocca mi sembra che ne ha uno. Ne ha uno, vabbè, che ne mette proprio belle le albicocche. Poi, vabbè, i fichi. Fichi nascini a camion. Graziano che piantende sempre. E quando male che dà, si teccia pure di verdura, così è Graziano. Ma Graziano se farà giù. Allora farà tutte, grazie. No, già è bella, quella lì è grande, 500.000 metri. Mezzetta, così, giusto, sì, 500.000 metri. E già è grande. E già. Qualcosa ogni anno già esce. I limoni già non mancano, qui sì, stagno a limone, bezzini, ma belli veramente. Quant'è 3.000 metri? Quale? Quella che ci avete voi? Oh, 5.000 metri quadri. Ah, ehi. Insomma, sono anni sì, cazzo. E voi travagliate secondo cosa vedi fa, capito? Sembra così, ma... E beh, che c'è? Tua suocera, o altri fratelli della tua ragazza ci sono? C'è il fratello, però non fa nulla, nel senso, non se ne occupa neanche. No? Se sai che manco il padre non gli fa fare niente. Non lo so, boh, Edo non ha gana, non... A me non me l'ha mai detto, ma poi non si fa tutto lui, non mica ti dice fai così, fai colà. Poi se capita che vuole una mano a innaffiare, ci sono problemi, o se ce la pianta, ma non me l'ha mai chiesto. Sì, vabbè, certe volte una mano fa sempre piacere, noi uno... Certe volte, magari, certe volte non è che uno deve aspettare che gli dicano cose, magari. Però se le cose se le fanno loro è tutta un'altra cosa, capito? È già diversa la questione. Però, lo penso se ti direbbero aiutarti, senz'altro lo andrai e aiuterai senz'altro, no? Se non chiedi sì. Non è che... Ma non me l'ha mai chiesto, ma non... Poi si fa tutto lui, eh? Se no cosa fa lui? Si annuia. Cosa ci sono? Alberi di frutta, molti alberi di frutta ci sono. Pesche, albicocche, vabbè, ciliegie, nespole. No, già ne ha. C'è anche molti alberi di olive, pere. No, già ne ha. Okay, veramente... Passano loro a coltivarla, capito? Poi sono tenuto per niente per quello, magari già ce la fanno loro piano piano. Grazie! Sì, buonanotte. Chi si è andata in ufficio è andato e via, carità. E cosa hai combinato oggi? Ah, oggi niente di che. Nulla. Stavo a fare un po' di spesa, prendo qualcosina, no? Per essere più leggeri di domani. E vedi, usterà di casa, sovrato un po' caggioso, due bassi, e poi me ne sono cazzato. Usterà di casa come te coso, che per carità, lui ragazzi. Vabbè, volendo già, i mesi ce li hai per spostarti, si può fare un giro, c'è la bicicletta, c'hai la macchina, capito? Sì, tanto in avanti hanno fatto un po' bello, per cui possiamo scendere in campagna e fare qualche cosetta, piano piano, bene, qualche cosetta gliela facciamo, va. E già viene sempre qua in campagna, va. A voglia. Grazie, farà tutti. Farsi in bagno. Beh, soggetto lui. ogni tanto devi scappare poi fusta. Vabbè. Cosa ci vuoi fare? Cazzo, mi sta facendo caldo, eh. Oggi c'è caldo veramente. E si conferma, c'è un po' di caldo. Infatti qua, vabbè, la voce è chiusa in camera da letto, se no, io non puoi stare. Uno di 15 anni, 50-60 gradi. Ah, qua in sala ci sta tutto il giorno il sole, tutta la vita. E va che mangio, faccio i zapparelli, faccio la poltrona, mi negavo le volte e mi faccio un bisolino. Cado per il sole, cadono per il sole, mi senza dentro, eh. Ah, beh, sì. No, qua già non ci possiamo lamentare, Giovanni. Ha voglia di, ha voglia a caldo. La mandrazza, siamo un fresco. È la telefono. È con quella tedesca? No, con mia figlia. Ma io passo con quella tedesca. Riprendi, Giovanni, che mi ha sentito 2 minuti. 2 minuti però, Mi raccomando, mi. Da adesso è partito il cronometro. 2 minuti, mi. Vabbè, tanto gli arrivi Lugano, va, a voglia, a fine mese c'ho il coso della patente, il rinnovo, e mi danno la patente nuova. Ma perché ancora quella vecchia c'hai? C'ho quella in carta ancora. Io ce l'ho da parecchi anni, un po' d'anni ve la giù, quella plastificata. E adesso lo danno così. Anche la carta d'identità pure fanno così adesso. No, quella l'ho fatta nel 2017, ce l'ho, la mia è nuova. E in carta ancora. Poi quando ci sarà da fare quella in plastica faccio quella. E adesso non so quando mi scade la carta d'identità. Ma l'ho fatta parecchio, 5-6 anni fa mi sembra l'abbia fatta io. Non mi ricordo. Devo controllare per il sicuro. La patente l'ho rinnovata in febbraio quest'anno, per altri 2 anni, 2 anni che da voi non mi date di più. Ah, poi non puoi più guidare. 2 anni solo, per 2 anni me l'hanno rinnovata, capito? Dopo gli 81 anni se ne danno, verranno poco, capito? E di meno gli anni da rinnovare. Certo. E come fai poi Gio Maria a scendere in campagna? Ah? Come fai dopo a scendere in campagna? Oh, vabbè, già Luca già c'era la patente. Se mi trovo da Cetra, che si ferma sotto casa e mi ci porta a San Camillo, mi prenderò. Mi prenderò a pelata, catta, sempre che ce l'abbia quando allora, capito? Questa campagna. Allora ci penso, dai. Quando non c'ho più la patente ci penserò. Se ne dica. Vuol dire che scenderò in motorino, sempre che non mi trovino e me ne ritirano. Casino. Vabbè, dai, già per quello già c'è anche i figli nel caso, ti accompagneranno loro. Poi già c'ho i miei nipoti, mi possono accompagnare, io so, mio figlio, no, c'ho i miei figli, ragazzi, che hanno tutti le appartenenze, così che non è che mi lasciano andare a piedi, no, mancherebbe altro, capito? No. Adesso me la sfrutto per altri 2 anni dopo, in cambio già contro la barra di Zaghiglio, noi diciamo così, il profetio, capito? Sì. E certo. Già, Mari te la danno un altro anno. In bicicletta vale. A chi? Non puoi fare con chi c'ha la moto scooter a bicicletta? Potrei scendere, sì. Potrei scendere, sì. Perché no? Dove sono i 2 o 3? Io vi lasciatevo volento. Precisa i selvaggi. No, ancora sono a cavalla io. è tutta venda dappata, gatta, adesso a tempo buono la tocco qualche volta, va, a fare qualche giro, lo catareddo, no che mi allontano, io lo catareddo. Ma sei due baci dai chi va a campagna duia, boh, arrivi alla rotatoia, fai la parata, la, quella salita in sacca mille c'è arrivato. Mi pare 5 minuti con questa scooter bicicletta, non è che ci metti di più, no? Cosa mi ha che già cammina? 7 minuti di con questo motorino, dai no che accompagniamo, 7 minuti. Hai visto, l'hai già provato, se te lo sto dicendo che già cammina, cavale che ci sta di noi, basta passare dal raccio di palla, e no che dalla sala cura. E non guarda quella che c'hai tu. Vabbè, ma non sono più un ragazzino io, grazie a te. Non sono più un ragazzino, lo sai, che... ci vuole anche la voglia e anche l'attenzione, capito? Mica chi su chi sta di noi che va lì dai due, ami. E ogni di chi su si dice andare un giro con la travaglia, e andare con chissà. Quasi tutti i giorni fa. Ci lo vedi trottenni con chissà. Non mi credi tu. Il cammino racconta lo barrio, grazie a... ancora faccio... grazie a Dio già faccio la pazienza per cui la macchina... Tra due anni vi pensiamo, si sono ancora i noghi. Vabbè, ma per dire no. No, se non ti rinnovano la patente, già ce l'hai il motorino, ha voglia di andare a tornare, ma non è così Luca, tu cosa ne dici di pensare? Vedi, anche Luca è d'accordo, Flipper non è entrato. No. Aspetta, vengo subito. Accuse oggi, Giovanni. Evidentemente, refrigeri, occhi e pantaloni, l'altro mio avanti, capolacera, faccio le manopole, mi hanno mandato le manopole nuove, così che basta cavarmi la manopola dell'acceleratore e la posso andare a pedale e andare a Matteo, va bene, ma questo è tranquillo, capito? Metti un acceleratore pericoloso e ti fermano, magari ti arretirano, capito? Che con la, o ti metto la multa con l'acceleratore, invece normale non te la possono toccare. Io lo so Giovanni, lo so, ho visto anche su canali 5 che non si possono vendere, e la puoi modificare, metti il coso, la stecchetta, per accelerare e via. No, se mi cavo l'acceleratore non è più modificato, per cui è normale, capito? Fa più tranquillo, infatti. Le manopole ce le ho, ne tocco la manopola, l'acceleratore ci metto la normale, boh. Tanto accelerare già quello con i pedali, capito? Per cui sei tranquillo, capito? Cammina, ma riuscì, ma già cammina Mattesi, piano piano, ma già cammina. Io lo so che cammina, la voglia. Certo che adesso la ferma, conta che a Natale in barriera hanno passato oggi, la cucina, cate che l'hai piazzata a lui. Verso Natale, dopo Natale. È già un anno ferma. I lasciatini, la giocavato tappata, la giubbotta in marcia dentro il magazzino, metto come state sopra e la giubbotta camminava un po' sopra il magazzino, però e la battaglia della più tu sì l'altro la buona cavalletto già è libera la ruota da rete quello cavalletto, per cui mi sono come stato in alto e già camminava la sola e faceva un po' con il motore, quello del motore cos'è, a bagno d'olio, no? Giusto? E allora, così che no, olio non ce n'è, così che è elettrico, per cui cammina, cammina, barra di sì, ma è a cammina. a chi? Quanto chilometro gira quando camminando, capito? Beh, certo, sta forza deve girare. E poi, certo, come sarà? Sta capa, quello freddo che la pena, se la capa pure, non saranno. Magari la torre davanti, vabbè, fa più caldo, cacchi in diretto, già me lo posso, va. Tanto vanno da sala sempre ferma, a fare la camminata un po' carino. Tanto così dai, scusa. Cacchi giri no, che andrei da me, alla, già me lo posso, va. Sì, già si inchiva, voglio farla girare un po'. Ma già è carina quella moto. La moto elettrica, è carina. Ma anche il casco c'hai? Eh? Anche il casco hai. Ho capito lui. Ho detto, sei anche il casco. No, casco non ce n'ho, no. Marco c'ha poco a comprarmi il casco, appena che lo vedo lì a Lidl mi lo compro un casco. Quelli sono omologati, per cui... ci vuole, meglio averlo, capito? Almeno il casco. Poi sei più tranquillo. Ia, grazie, hai scelto di sì. Oh, sei parato, visto. Accusi, Dai, arretro dopo, no, che... Sto facendo qualcosa, dai. Sì, fai, già sono qua. Guffetta. Illu. Graziano. Battisio. Sommari. E cos'è? Catta, dormimmo. Oh, mi fa ridere con Luca poco fa. Dopo mi sono assaltato e stavo guardando il panorama dalla sala, no, seduto, però l'apparecchio l'ha acceso. Allora sono venuto a risponderti. Sì, buonasera. Caspita, che andiamo, che andiamo. Bobo, Graziano. Cos'è, ripeto a moglie buscia? Stava con noi parlando, ma si è assentato evidentemente, era in ufficio secondo lui, no? Prima al telefono, dopo in ufficio, e poi abbiamo chiamato 5-6 volte, ho risposto, allora ho lasciato acceso e me ne sono andato alla finestra, capito? Sì, hai fatto bene. Panorama vedo, si vede. Ma entrerà senz'altro, magari ci sarà anche Luca in ascolto. Vediamo un po' Luca, perché c'era anche Luca, capito? Montanaro però, Sì, c'era andato a mangiare, chissà. Ci si è andato a mangiare la bassa forno, no, credo, Per cui, merendando sarà magari, chiacchierando con la ragazza. Infatti, sarà così, boh. E allora, ma chi si è messo ai cavolafiori contando se ce la manca qualcuno? Se non li accendi. Chi ne sa, Questo Bacchisio, gatto. Che hai goccia questa campagna, gatto. E invece sa che ha passeggiato gli arrivi c'è in campagna. Gli ha passeggiato in campagna, in macchina sarà. Accendi. E può darsi pure. Già le 7:20. Sì, a che rimane mi ha chiamato a che ora mi ha chiamato? Che stava entrando dal coso. Da Sine Antonino. Marinotti non è entrato quando è accaduto. Sì, era entrato ieri sera. Già è entrato ieri sera, sì. Un po' tardi ma già è entrato. Ma io avevo chiuso. Sì, avevi già chiuso tu. E così fa stasera, è sempre impegnato, esce tardi, adesso si tratta di più magari perché la giornata è più lunga, un cosa l'altro, e così che sai com'è. Vabbè, se vuole chiamare, entrare, non entrerà. Io ho lasciato la porta aperta, e vuole entrare. Basta bussare ed entra subito. Sì, assieme nobbi. Se vuoi chiama, entra già assieme nobbi. Infatti, e tu già sei libero stasera allora? Adesso sì, perché sono rientrato da mia figlia e sono libero. Ah, ho capito. Vabbè. Quando uno è zappalato, cosa fai? Io ripeto, quando sono a casa è sempre acceso. Ogni tanto magari do una fischiata o un grido, non risponde nessuno. Mi allontano, però è sempre acceso, capito? Non lo so. Non lo saccio. Ma in bicicletta sei uscito oggi? Chissà. Oi, la china mia. Ho detto, in bicicletta sei uscito oggi o no? Desidero. Un dolore avanti, un dolore ad abbo e si dirà danzi. Ma bene mi senti tu? Io sì. Poi se qualche altro ti dice di no, io ti intendo bene. Dalla parte mia sì. Ah, credevo che stessi uscendo male, capito? E c'è un quarantenino piccolo mi dentro casa, Sì, anda. No, io qua è tutto regolare. Vedi al patetto Graziano. Vuol dire che mi è uscito da qualche piccolino sto. E magari va gente a va. O per parete la zena. A chi se lo sarebbe entrato subito, Sì. Mentre già mai do 30 ruffizio. Chissà che non sia una cosa lunga. A chi ha bisogno di alzare l'entrato? In 5 minuti è entrato 3 o 4 voci. Aia, chissà una cosa grave. Quella è una cosa grave. Ma la già di natura, Graziano, adesso. Andiamo. Allora, voi li friggi da voi, Purtroppo è così. Sta mangiando i melanzani. Non mandano assai i melanzani, mi sono soffendi. Anche le melanzane sono buone, là. Se sono condite bene, capra. Anche se le friggi, importante che ti diremo un sacchetto o no? Sì, dipende. Attento, grazie a lei tu, detto lo chef. A me maneggia su fatto. Come ti dici, buona reddu, Sì, Graziano, A me, non so più cosa di. È meglio di così, fare merenzare. Buona reddu, ohia! Andiamo. Bah, pensa questa. Sì, possiamo sentire la merda, l'altra buio, un riccio. Con i bianchi cambiami la salute o no? Infatti, cata, mi aggasco e non ve la posso più. Che dastro? Deve essere sempre fatto di ingegneria, sempre costruendo roba, non si fa niente di banchia, sempre pignato. Curusaggiatori, gatto! Io Mari, chissà, che andiamo bene. Noi andiamo sempre bene, andando male, ti confessiamo. Attenta lunga del monte. Allora sono merendenti, c'è niente, dai. Sono merendenti, per cui non rispondono adesso, perché sono a bocca piena. Oi, gatta, che andiamo bene. Attento, ma chi sei tu? Dove sei? Non rispondono, no. Dillo me, chi c'è detto me? Non si sa, non lo so. Luca! Che andiamo a vedere, Gianmarie? Ragazzo, male! Attento, ma chi sei tu? Mi baria luce, carino suio. Che andiamo? Andiamo. Ma qua su Luca! È entrato, la gira. Cos'è? Anche l'altro Luca è entrato. Luca del Monte è entrato solo. L'altro va a essere impegnato con Archimede. Sempre inventando i saggi. Infatti, chissà se voce in Libia, gatta. Ma che andare in fattori di là, non si può rifare da di tutto. Andiamo per andiamo. Bu-bu. E allora, va a fare di là. Ah, dice mi vuole via Mizzecari, capito mi hai? Dai, dai. Ui, ui, e cura noi. Ehi, cura Lucani, che senza mutandi. Ma era così biaro vre quello. È abituato a stare senza mutandi. Che c'è Rubetto? Lucani mi faccia senza mutandi, perché mi sanzi sempre me. Aspetta, lascia virare le mutande. Uiuia. Attenzione, Graziano. E andiamo bene, andiamo. Noi andiamo sempre bene, tu. Noi andiamo sempre bene. Cadu, per qualche cosa in Ruanda, la lasciamo andare alla base. Attento, signor Bacchisiddu. Signor Maria, aspetta un attimino, Sentilo subito. Ehi, acceso qua che mi sto guardando a Bonoli, ci vai. Cucù, cucù. Signor Maria, ma sono rientrato. E chi è? Stai uscendo male. Sei il tuo Babbo Natale, stai uscendo male. Ma si qua sei tutto in mezzo al QRM. Marino, tu sì. Quindi sei in macchina, sì. Sì, in mezzo al QRM, ma quasi quasi ne manca ancora. Riesci a comprenditi? Ancora no. Aspetta. Ma si quasi non riesco a capirti, Aspetta un attimino. Attenzione, Gio Maria. Dimmi tu. Ma tu lo senti a Marino? No, non lo sento per niente, io no. Nulla, nemmeno segnale, niente. Mari, pensa un po', Gio Maria non ti intende bannuda. Sì, siamo qua. Atta, a me, Mari via. Mezza QRM. Nulla, non è manco QRM, nulla, Italia, per carità, Iga. Andiamo bene. Eppure Marino, a momenti, ci fossi. Se ci riesci forse, se ci di e se va su, Una frequenza che andava male, chissà, e comincia così la frequenza, andiamo bene. Ma lui ha l'antenna esterna, per cui dovrebbe arrivare. Quello che stavo dicendo anch'io, ma è terra a terra, bruppio. Oggi non le sento per niente, Non lo so perché. Uiuia, ci andiamo bene. Chissà cosa conviene andava a dire. Chissà se forse intendi. Ma mi dici che l'hanno chiamato. Allora già non altro discorso. Io pensavo che stavo mettendo a posto l'antenna. Sicuramente stava mettendo a posto l'antenna, Vediamo se c'è Luca. Luca del Monte. A te, to Graziano. Ti pari di sotto. Vabbè, tu dai, io mi guardo a Bonolici, dai, ci sentiamo domani, dai. Senti, la bacchigia, salutami. Se no, almeno mi guarda a Bonolici, dai. Sì, ok, ciao Giammai, ci sentiamo domani, ok. Marino. Oia, stai uscendo male lo stesso. Marino. Sei fuori frequenza. Se il segnale è forte, però sei fuori frequenza di radio. Marino. Guarda che sì, deve essere fuori frequenza, Ti sentendo tutta Mari. Cambia apparato perché stai uscendo male con quell'apparato lì. Sì, glielo so, io in PMR, che passi in 27, che così te l'ascoltiamo. Che macota, Marino, passa in 27, almeno ti ascoltiamo. Attenzione Bacchisio, cambio. Che ti sta parlando, mi? Mi senti, Tore? Adesso sì. Insomma, cioè, il segnale è forte, però la radio era fuori frequenza. Comunque il segnale era forte, va bene, se il segnale era forte. Ora, ho già capito quello che vuoi, era... Non c'ho chiari, forse ho toccato qualcosa. Ho un grido fuori frequenza, e adesso c'ho il segnale a fuoroscala. Ok, era fuori frequenza, era una lesione. Comunque come segnale è forte, sì. Il segnale è forte adesso, la radio è buona. Meglio di prima. Che di PC ti devi buoni. E sto usando quello giapponese, sto usando, dove tiro quello c'ha. Oh, aspetta, voglio sentire Bacchisio. Avanti, Bacchi. Sì, Maria, adesso sì, sei tu. Limpido e chiaro, e sentiamo il 9. Aspetta il cambio radio, è fuori frequenza, può darsi, dai. Cambio radio, ma ti faccio veloce a svitare il PL, là. Svita il PL e prova, io non l'abbiamo messo già a dormire, to. Sicuramente qualcosa, o era fuori frequenza, boh. Oppure ha pitato male il PL. Ma doveva essere in un'altra frequenza, doveva essere. Guardate, così non ci ascoltava. Era fuori, e adesso come mi senti? Ah vai, attendendo bene io, bisogna avere Bacchisio. La messete bene Bacchisio, vero Bacchisio? Bene, limpido e chiaro come poco fa, Santiago 9 Radio 5, con uguale identico da poco fa. Adesso sto utilizzando il tuo gemello, sto utilizzando, va. Ok, comunque era il cavo sicuramente Bacchisio, era il cavo a massa, va. Ok, mi interessava solo questo, ma detto, ma sicuramente avrò fatto qualche errore, ma ho piazzato giusto tutto quanto. Va bene, dai, vuol dire che vuoi controllare il cavetto, vuoi controllarlo, dai. Ok, adesso è attaccato con la 27, dai. Sì, col coso, con il portatile sotto antenna, con sento lo spezzone, così è. Esatto, sono interlazzino mio figlio con il portatile sotto antenna, con lo spezzone, esatto. Guarda, sicuramente lo spezzone è qualcosa di massa, sono lo stacco, poi ci vediamo domani, dai. Ok, ma adesso scende attacco la 27, beh. No, io chiudo perché è arrivata la medicina. Sono ora di merendero. Bene Marino, ci sentiamo domani, ce la vediamo. Ciao Marino, sotto in casa. Ciao Tore, buona serata ancora, saluta la signora. A domani e chi si passa in QRT causa medicine sempre. Ciao ciao. Ok, okay, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Ah, ok, già ti faccio la bassa, bene. Otto, anche io mi stacco tutto qua, così mi stacco questo cavo, là. Ci sentiamo domani, Tore, grazie anche per te. A domani, ciao. Ok, ciao Mari, ci sentiamo.